Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Che qualcosa non andasse, in verità, lo avevo intuito. Lo avevo carpito dagli sguardi dei miei compagni di classe, dalle carezze che arrivavano come se piovesse, e dalla strana dolcezza della maestra Bernardina. Gianmarco, dove sei? Questa è un po' la frase con cui vorrei iniziare e probabilmente anche chiudere la puntata di oggi. Perché è veramente un caso, ma è proprio un caso rarissimo, che Margherita Hina non riesca a recuperare l'autore dei racconti che mandiamo in onda. Questo programma funziona così. Noi vi chiediamo di raccontarci una storia semplice, che sia un episodio della vostra vita, eccetera, eccetera, eccetera. Vi chiediamo di inviarla a voi siete qui, @radio24.it. E però, insomma, di darci dei recapiti. Di solito qualcuno mette il telefono, però sostanzialmente il recapito è la mail stessa, no? È quell'indirizzo lì. Margherita Hina, come un segugio che si mette sulle tracce della preda, comincia a mandare mail con grandissimo anticipo, per cui ci sono persone che rispondono il giorno prima, e il giorno prima il giorno stesso, alcune il giorno prima della messa in onda, però, come, insomma, se siete abituati a questo programma, sapete che più o meno ci sono sempre tutti gli ascoltatori che mandiamo in onda. Niente, Gianmarco è sparito. Non si capisce se ha usato un indirizzo mail che non utilizza più, non si capisce se gli è passata la voglia banalmente. Quante mail abbiamo mandato Margherita, Gianmarco? Tre mail nell'arco di 2 settimane, 10 giorni più o meno. Forse c'è da dire che noi leggiamo con un po' di ritardo i racconti che ci arrivano. Il racconto di Gianmarco forse era stato mandato attorno a dicembre, possibile, ottobre. Vabbè, allora posso anche capirlo. Vabbè, vi promettiamo che io e Bonini ci mettiamo al pari, che li leggiamo. Siamo arrivati quando? Già in questi giorni di Pasqua ne abbiamo letti. Vabbè, ma questi sono problemi nostri. In sostanza, oggi Gianmarco non è presente. Gianmarco, se tu ci stai ascoltando, anche se mi hai mandato una mail da cui si capisce che tu probabilmente ascolti in podcast, manda un messaggio 349-238-6666. Ti richiamiamo subito. Avevi scritto per capire chi sei, eh? Ciao Matteo, sono un grande ascoltatore in real time, quando posso, in podcast, quando resto indietro. Ho scritto la mia paginetta circa 3 mesi fa, ma l'ho lasciata sul mio computer a convincermi e a ricredermi di volta in volta se mandarlo oppure no. Poi mi sono deciso sulle note di Wires degli Athlete, che non conosco, ma saranno evidentemente un gruppo che si chiama Athlete, che ha fatto una canzone che si chiama Wires, non mi sfugge niente, perché quei pochi minuti di 30 anni fa possono rivivere in questa pagina. La storia di Gianmarco è una storia dolorosa, che fa un po' male, e come fa, insomma, ha fatto parecchio male, direi, più che un po', e come delle volte succede, fortunatamente, dalle storie che ci fanno male di solito impariamo qualcosa. Di solito, poi in realtà delle volte è solo una banalità questa, delle volte invece per fortuna no, si impara. Ecco perché la cosa che vorremmo capire oggi è che cos'è la cosa che avete imparato dalle disavventure della vita. 349-238-6666, Francesco ad esempio scrive sul profilo Facebook del programma, che voi siete qui Radio 24, che a tutto c'è rimedio, che il dolore fortifica anche se lascia il segno. Michela, che c'è sempre una pagina da scrivere. Claudio, che bisogna sempre guardare avanti. E poi c'è Elisa che conosciamo, che scrive: ho imparato dalle disavventure che bisogna fidarsi il meno possibile delle persone, che tutto è provvisorio, non affondare radici da nessuna parte, non affezionarsi e poi in maiuscolo non firmare cose a caso. Per chi non se la ricordasse, Elisa è quella che ha praticamente prestato dei soldi a un fidanzato che adesso è sparito. Elisa, facci sapere com'è nata questa storia. Vi ripeto, però, la storia di Gianmarco oggi parla di quella cosa lì, parla di come in qualche modo anche dai dolori, dai grandi dolori, si possa imparare qualcosa. Che qualcosa non andasse, in verità, lo avevo intuito. Lo avevo carpito dagli sguardi dei miei compagni di classe, dalle carezze che arrivavano come se piovesse, e dalla strana dolcezza della maestra, la signora Bernardina, dalle assenze prolungate di mamma e papà, dai silenzi che assordavano i pranzi e le cene con mia nonna. Papà dovrà assentarsi da casa per qualche giorno, solo un controllo di routine, disse la mamma, un veloce tagliando, poi tornerà, come la macchina nuova appena comprata. Mia madre lo disse a me e a mia sorella di 6 anni. Lo fece senza guardarci negli occhi, fissando distratta i piatti che stava sciacquando freneticamente sul lavandino in cucina. La macchina nuova era una Ford Escort celeste, comprata 2 mesi prima, prima che la mia infanzia venisse pensionata precocemente. Di quei momenti ricordo bene un fotogramma, e lo ricordo quasi tutte le sere. Lo ricordo quasi tutte le volte che guardo mio figlio Mattia e mi rivedo in lui, coetanei a distanza di 30 anni. Mia mamma ci portò a salutare papà in ospedale, lungo sul letto, pallido, scavato, le labbra macchiate da spesse bolle nere, i capelli acciaccati e scompigliati, annichilito dalla morfina irrorata da tubicini che dalle narici salivano in alto, fin sopra il letto. Papà non era cosciente e non lo sarebbe mai più stato. Dall'ospedale mio padre non ne uscì più. Un tumore se lo portò via a soli 34 anni. «Date un bacio a vostro padre», disse mamma a mezza bocca e con gli occhi che come dighe a stento trattenevano la piena. «Adesso è stanco, deve riposare perché domani vuole essere in forma». Baciammo papà senza sapere o volere credere che sarebbe stato l'ultimo bacio. L'ultimo istante della nostra vita insieme. L'ultima riunione di famiglia in una stanza d'ospedale, con le pareti verde acido e i separi tra i letti, una luce giallognola, i rosari appesi alla Madonnina sul corridoio e preghiere mormorate in sottofondo. Ero lì, davanti a lui. Avrei dovuto salutare papà a dovere, avrei dovuto dirgli dell'ultimo voto del compito di italiano o del bullo che mi infastidiva i giardini, ma anche della bicicletta nuova che volevo per la promozione. Avrei dovuto dirgli del caldo che era già arrivato o delle figurine che mancavano per finire l'album, del tempo che avremmo passato insieme quando fosse tornato a casa, nella nostra casa, così silenziosa e indifesa senza di lui. Ma non lo feci. L'indomani papà ci avrebbe lasciato per sempre. L'indomani sarei diventato uomo a 9 anni. A partire da quel domani la mia vita sarebbe stata segnata indelebilmente e per sempre dall'incontro con un lutto troppo grande per un bambino. Sono trascorsi presso poco 30 anni. Mia mamma ha cresciuto me e mia sorella praticamente da sola, con una nonna, a sua volta vedova. Insomma, non un papà, non un nonno, ma 3 donne a cui badare e da cui essere badato. Oggi io sono papà di 3 bellissimi bambini, 2 femmine e 1 maschio. Ho una splendida moglie e una famiglia meravigliosa per la quale darei la mia vita. Di acqua sotto i ponti ne è passata. La vita, nonostante tutto, è andata avanti. E altri eventi, più lieti, meno invasivi, hanno pian piano rimarginato quel lutto immane. Tuttavia, ancora oggi, tutti i giorni, almeno una volta, almeno un istante, penso a quel momento, a quel mese di maggio del 1983, a quella variabile impazzita della nostra normale e piatta esistenza che bussò alla nostra porta, prese mio padre, la mia infanzia, la nostra serenità, se le portò via e mi lasciò solo, con una sorella piccola e una madre coraggiosa, con una Ford Escort nuova da vendere e un mutuo trentennale da pagare. I'll find a better way someday. Leaving only me and my dreams, my cattle, and a resonator. Drove all the beasts down right under your nose. The lumbering, footloose power, the bull and the rose. Don't touch them, don't try to hurt them, my cattle. By the crops and thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts, and I set my watch against the city clock. It was way off. One thing about this, wild, wild country. Takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. But anything less makes me feel like I'm wasting my time. But the pain and frustration. Per qualche tempo una persona di cui mi fidavo molto mi ha detto che l'unica cosa che si può fare di fronte alle cose brutte della vita è trarne un insegnamento. Quando non ci puoi fare nulla e gli avvenimenti sono più forti e soverchianti, l'unica possibilità che ha l'uomo è quella di lasciar passare e poi cercare di imparare qualcosa, trarne delle conclusioni, che poi, in altri termini, è un modo per definire l'elaborazione del lutto. Però, a 9 anni, che cosa puoi imparare da tuo padre che se ne va per sempre senza nemmeno salutarti? Quale insegnamento per il futuro puoi trarne da un evento così definitivo e così travolgente? Non lo so, io credo che solo chi ha vissuto situazioni come queste possa raccontare che cosa si impara, ripeto, se si impara qualcosa. Fortunatamente io ho entrambi i genitori e non saprei davvero che cosa dire a questo proposito. Penso però che tutti quelli che si trovano attorno a chi vive situazioni come queste abbiano qualcosa da imparare da loro. Cioè, credo che i compagni di Gianmarco abbiano imparato qualcosa da lui, e così è successo per le amiche di sua madre, osservandola, o di sua sorella. Lo dico perché a me è successo di imparare in una situazione come questa. Federico si chiama il mio amico e Gianna si chiamava la sua mamma, che da un giorno all'altro, mentre si trovava in vacanza con dei colleghi a Vienna, lasciò lui, sua sorella e suo padre da soli. E lasciò noi a guardare loro, che cercavano di rimettere insieme i pezzi. E sono tante, piccole e molto diverse tra loro le cose che ho imparato da Federico a 16 anni, quando sua mamma è mancata. E la prima è che la frase «la vita va avanti» è una frase orribile, ma è forse la frase col significato più tremendo e allo stesso tempo più salvifico che ci sia. Perché uno a cui succede una roba del genere non vuole sentirsi dire quella frase lì, che la vita va avanti, perché preferirebbe che tutto si fermasse. Anzi, se fosse possibile, che tutto tornasse indietro. Ma quella frase lì è anche l'unica via di salvezza, perché non solo la tua vita va avanti, ovviamente, ma tutte le vite intorno alla tua vanno avanti. E quel procedere incessante è l'unico modo per smettere di volere fermare tutto, per distrarsi, insomma, e per non correre il rischio di impazzire. E poi quello che resta da imparare torna a galla dai ricordi di quella persona che non c'è più, ma che ha lasciato dei piccoli semi nella tua memoria, che germogliano quando serve, nei momenti in cui meno te l'aspetti, sotto forma di piccoli preziosi insegnamenti. Come se fossero una lezione inconsapevole e gratuita che ti è stata donata molti anni prima, quando ancora non sapevi che tutto quello ti sarebbe servito, prima o poi. It's not time to make a change, just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go. Questa è la versione di Johnny Cash, ovviamente, di Father and Son, che era un pezzo invece di di Cat Stevens. Ringraziamo Alessandra De Luca che è di là in regia e ci ricorda che era Cat Stevens che cantava Father and Son. Questa però è una cover ovviamente di Johnny Cash. Ripeto, forse è una scusa, non lo so. Forse è un modo per cercare di trovare un senso alle sofferenze o alle disavventure, no? Quello di dire alla fine si impara qualcosa. C'è un libro che ha avuto anche, è diventato un film anche di recente, che hanno visto credo in tre, che si chiama Un giorno tutto questo dolore ti sarà utile. È un scrittore americano che scrive la storia di questo ragazzino a cui capita una disavventura diversa, in realtà mi pare che abbia a che fare con la scoperta della sessualità, e appunto racconta di quella cosa lì, racconta di come in teoria il dolore possa servire. Secondo me, nel migliore dei mondi possibili, se si può stare meglio è meglio che se si può stare peggio, che è una banalità, però mi sembra abbia un senso. È anche vero però appunto che certi momenti non si possono bypassare del tutto, no? A meno che di lasciare tutti per primi, e che non è nemmeno quello auspicabile. A proposito di lasciare tutti e di lasciare un insegnamento, già credo l'anno scorso, addirittura in Io sono qui ne avevo parlato, insomma non ricordo. So che questo è un regalo che mi fece Laura Faggin quando lavorava al posto di Margherita con noi, ed è un libro che si chiama L'ultima lezione, ed è di fatto la messa per iscritto di quella che è stata l'ultima lezione di un professore universitario che si chiamava Randy Pausch, adesso non saprei dirlo meglio di così, che un giorno all'età di 47 anni scopre di essere malato, come direbbero i giornalisti, di avere un male incurabile, e decide di lasciare una forma di insegnamento sotto forma di lezione, perché lui fa il docente universitario, ai propri figli. Lui ha una moglie ovviamente e tre bambini di 5, 2 e 1 anno. Il 18 settembre del 2007 lui tiene davanti a 400 studenti questa che lui definisce l'ultima lezione, che si intitola così: realizzare davvero i sogni dell'infanzia. Fa una cosa che ha a che fare quindi con il realizzare i propri desideri, no? Quindi proiettandosi e proiettando i desideri dei propri figli nel futuro, partendo da una lista che è una lista, insomma, che mi piace come tutte le liste, soprattutto perché si tratta di una lista dei desideri di quando aveva 8 anni, in cui tra le altre cose lui dice: vorrei sperimentare l'assenza di gravità, vincere i peluche più grossi al Luna Park, diventare un giocatore professionista di football americano, firmare un articolo, questo ripeto a 8 anni, sulla World Book Encyclopedia, progettare i parchi della Disney. Questa è una lezione molto lunga, andatevela a vedere, ovviamente c'è su YouTube la lezione di Randy Pausch, si chiama L'ultima lezione, la vita spiegata da un uomo che muore, invece è il titolo del libro che ho sotto le mani, pubblicato da Rizzoli. Vorrei leggervene un pezzettino che fa parte della quinta parte, che si intitola Come vivere la propria vita, e questo pezzettino nella fattispecie si intitola invece Sognare in grande. La prima volta che l'uomo ha camminato sulla Luna era l'estate del 1969 e io avevo 8 anni. Quel giorno compresi che quasi tutto era possibile, come se a noi tutti, in tutto il mondo, fosse stato dato il permesso di sognare in grande. Ero in campeggio quell'estate e appena il modulo lunare atterrò, ci portarono tutti nella casa principale della fattoria dove c'era il televisore. Gli astronauti ci stavano mettendo molto tempo a organizzarsi prima di saltare giù dalla scaletta e camminare sulla superficie lunare. Avevano un equipaggiamento ingombrante e molte procedure da rispettare, ma io pazientavo. I gestori del campeggio continuavano a tenere d'occhio l'orologio, erano passate le 11. Alla fine, mentre sulla Luna si prendevano decisioni avvedute, sulla Terra ne prendevano una sciocca. Rispedirono alle tende tutti noi bambini per farci coricare. Io ero davvero stizzito nei confronti dei gestori del campeggio. Il pensiero che mi aleggiava in testa era questo: la mia specie se ne va dal pianeta e atterra su un nuovo mondo per la prima volta e voi pensate davvero che noi possiamo avere sonno? Quando tornai a casa alcune settimane dopo, scoprii che mio padre aveva scattato una foto alla TV nell'istante esatto in cui Neil Armstrong aveva appoggiato il piede sulla Luna. Aveva fermato quell'attimo per me, sapendo che avrebbe alimentato grandi sogni. Abbiamo ancora quella foto, in qualche album. Quando si mandano gli uomini sulla Luna, siamo tutti spronati a raggiungere il massimo delle nostre potenzialità, che è il modo migliore per provare a risolvere il grosso dei nostri problemi. E allora concedetevi l'occasione di sognare. Alimentate anche i sogni dei vostri figli, anche se questo dovesse significare lasciarli in piedi ben oltre l'ora di andare a letto. Voi siete qui. Impossibile, imbattibile, inspiegabile. Cosa può fare il 5 per 1000 contro il cancro? Possibile, battibile, spiegabile, curabile. Aiutaci ad eliminare le prime due lettere della parola incurabile. Scegli di devolvere il 5 per 1000 all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Basta inserire il codice fiscale di AIRC nella tua dichiarazione dei redditi. Chiama il numero verde 800-350-350 o visita il sito airc.it per il codice fiscale. Renault estende gli eco-incentivi a tutta la gamma. Solo ad aprile, Renault Twingo a 6.950 euro, con 3 anni di assicurazione furto e incendio a 20 euro l'anno. TAN 499, TAEG 933. Info in concessionario su Firenne.it. Ti aspettiamo sabato e domenica. Buongiorno, vorrei il mensile plein air. Plein air? Ecco a lei! Grazie, grazie mille. A lei, buona giornata. Chi sceglie Plein Air si immerge nella natura. Plein Air è il mensile per chi viaggia in camper, in caravan, di chi ama i campeggi e le escursioni. Immergiti anche sul web. Su pleinair.it trovi le ultime novità su caravan, camper, assicurazioni ed è per il weekend. In più con Plein Air, gratis ad aprile, la guida agrituristica Agri Plein Air e a maggio la guida agli approdi Portolano. Plein Air, lontano dai soliti viaggi. Borse in diretta. Wall Street positiva, il Dow Jones guadagna lo 0,58%, il Nasdaq lo 0,75%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,59%. Accelera anche la borsa europea dopo i dati macroeconomici americani. Il FTSE MIB guadagna l'1,03%, Francoforte sale dell'1,27%, Londra dell'1,25%, Parigi dell'1,34%. Invece l'euro in questo momento vale sul dollaro 1,28 e 29 centesimi. Tutto, la borsa in diretta torna tra un'ora. Oggi parliamo a voi, cultori dell'ultimo minuto, voi che entrate nel supermercato un minuto prima che chiuda, o al cinema, un minuto prima che inizi il film, ma se proprio all'ultimo minuto dovete cercare qualcosa, beh, è il momento di 89 24 24, per cercare senza smettere di fare. Info e costi 89 24 24.it. Benvenuto. Per parlare con un operatore, premi 1. Per ritrovare te stesso, premi 1. Per dire no al colesterolo, premi 1. Per comprare una vocale, premi 1. Per cantare insieme a noi, in magica armonia, premi 1. Abituati ad avere tutto in un'unica soluzione. Optima Italia, vita semplificata per il tuo business. Elettricità, gas, telefono, mobile, internet. OptimaItalia.com. Per tornare al menu principale, premi 1. Mi sto appassionando alle serie TV. Ma ormai sono solo repliche. Compra anche tu Brio Blu Rocchetta. Per un mese puoi guardare tutte le serie TV di Premium Play gratis. Acqua minerale Brio Blu ti regala lo spettacolo di Mediaset Premium su Premium Play. Scopri i dettagli su brioregalapremium.it. Brio Blu, rossa o blu, mi piaci tu. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. La foto di oggi non c'è perché Gianmarco purtroppo non ha chiamato, vero? Non l'abbiamo trovato. Niente, non è arrivato. Quindi mi piacerebbe descrivervi una foto inesistente, ma la foto non c'è. Però andate comunque sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Trovate tutti i brani che abbiamo mandato, trovate comunque i pezzi della storia di Gianmarco. Lezione. Sostantivo femminile. Ciascuno degli incontri fra il docente o istruttore e uno o più allievi nell'ambito dello svolgimento di un programma di studio o dell'apprendimento di una tecnica. Figurativo, ammaestramento salutare, che può essere compreso tra l'avvertimento e il castigo, anche fisico, o comportare riferimenti ironici. Etimo, dal latino lectio lectionis, derivato di leggere, leggere, data secolo XIV. Continuano ad arrivare delle richieste a riguardo di Alessandra De Luca. Vorrebbero delle foto tu e Alessandra. Facciamo così, che venite al live finale di quest'anno. Alessandra ci sarà e troviamo il modo per farla conoscere, per farla salutare dal palco. Alessandra, non ti sei... Sul sito... Ah, certo, a parte che sul sito ci sono le foto, scusatemi. Bravo, Pietro Lacorte. Me la rifai, per piacere. Andate sulla pagina di Radio 24 e... Dov'è? Chi siamo? Come si chiama? Fotografie, chi siamo? E trovate... gli speaker, certo. Chi siamo? Gli speaker. E comunque, Alessandra, ci sarai al live quest'anno, vero? A fine giugno. Ancora non sappiamo le date, ancora non le sappiamo, però è presto. Insomma, il 2 aprile. 349-238-6666. Stiamo cercando di capire se veramente... ma si impara qualcosa dalle disavventure della vita, le abbiamo chiamate così, ma potremmo anche chiamarle sofferenze o disgrazie. Anna è piuttosto tranchant sul profilo Facebook, scrive: ho imparato che il dolore non fortifica proprio nulla e la forza è una qualità sopravvalutata. Questo è un punto di vista più che trasversale e diametralmente opposto, però è un punto di vista interessante. E invece, che cosa ha imparato? Non si firma. Ciao Matteo, a 25 anni ho perso mio padre, a 27 mia madre, a 39 mia sorella. Ancora sto cercando il senso della vita. Forse la lezione è vivere tutti i giorni, anche se tra un giramento di palle e l'altro. È duro, ma ci proviamo. Questa sera forza Juve, scrive. Ho imparato a non fidarmi di nessuno, scrive Andrea da Torino, e che un sorriso non va regalato a chiunque. Ecco, e poi diciamo, le pieghe che si prendono sono due, no? O ci si apre oppure ci si incattivisce un po'. Da 28 anni lotto ogni giorno con le stampelle contro le difficoltà che la vita mi riserva dopo un incidente post motocross. Ho imparato a non mollare, ma è sempre più dura. Ciao Fabio. Bravo Fabio. Che devo dire? Non so, commentare questi messaggi non ha alcun senso, nemmeno questo va commentato, però ha senso solo leggerlo. Mio figlio ha avuto un cancro a 2 anni e mezzo. Cosa ho imparato? A non lasciarlo mai solo e vivere ogni momento con lui, specie adesso che sta bene. La storia di Gianmarco parlava di un momento traumatico che era legato a un'esperienza col padre, e quindi oggi abbiamo allargato quell'argomento lì, che è la cosa che più o meno facciamo ogni giorno con ogni puntata, allargandolo appunto agli insegnamenti legati ai momenti tristi e drammatici o difficili, ma anche agli insegnamenti dei padri. Nella prima parte, poco prima della borsa, vi ho letto un pezzo da questo libro che si chiama L'ultima lezione, che è appunto una lezione che questo Randy Pausch, che era un docente universitario americano, tiene di fatto per i figli. I figli sono piccoli, quindi probabilmente non riescono a seguirla, perché il più grande ha 5 anni, il più piccolo ne ha 1, però è tutto ripreso, infatti potete vedervi i video su YouTube, in modo che loro quando crescano possano vedere, non solo avere dei ricordi del padre legati alla madre o ai parenti, ma vederlo che gli parla di fatto e gli tiene una lezione. Per andare totalmente da un'altra parte, 2 anni fa è uscito un libro che si chiama Le cazzate che dice mio padre, è tradotto banalmente dall'inglese, che invece il titolo è Shit My Dad Says, che sarebbe più le cagate che dice mio padre, una roba del genere. Praticamente è la storia, non è la storia, sono è un mini compendio di aneddoti divertenti riguardo al padre di questo tizio che si chiama Justin Halpern, a cui succede una cosa che succede a tutti, o meglio, succede a tutti di essere lasciati dalla fidanzata. Succede un po' meno di ritornare a casa dei genitori dopo 10 anni, però è anche vero che questo è tornato dai genitori a 29 anni ed era fuori da 10. In Italia a 29 anni ancora sei lì che te la godi. Insomma, lui sostanzialmente torna a casa dei genitori e il padre torna a ripetergli le cose che gli dice da una vita, che sono, ripeto, delle mini frasi, dei mini insegnamenti molto grezzi, passatemi il termine, molto rudi e molto grezzi, che lui mette insieme su un profilo Twitter che in pochissimo tempo ha 2 milioni di follower. Ne viene fuori un libro, ne viene fuori una sitcom americana, e vabbè, quelli sono, diciamo, sempre gli spin-off, i corollari che saltano fuori quando una cosa ha un grande successo nazionale e in questo caso internazionale. Questo che sto per leggervi, prima vi leggo come tutto è cominciato, poi vi leggo alcuni degli aneddoti e delle frasi del padre. Quando avevo 28 anni, abitavo a Los Angeles ed ero al terzo anno di una relazione a distanza con la mia ragazza, che stava a San Diego. Quasi tutti i venerdì mi facevo 3 ore e mezzo di traffico, serpeggiando lungo la I-5 per 200 km con la mia Ford Ranger del 1999. Questa cosa a distanza stava cominciando a logorarmi, sicché quando nel maggio del 2009 ricevetti da una rivista online una proposta che mi avrebbe permesso di lavorare dappertutto, la colsi al volo. Potevo trasferirmi a San Diego e vivere con la mia ragazza. L'unico intoppo fu che la mia ragazza si mostrò meno entusiasta di me. E con meno entusiasta intendo che quando andai a darle di persona la buona notizia, lei mi piantò. Mentre mi allontanavo da casa sua, mi resi improvvisamente conto che le uniche persone di mia conoscenza da cui potevo stare a San Diego erano i miei genitori. Poco dopo essermi presentato senza preavviso nella modesta casa con 3 camere da letto che i miei possiedono in un quartiere di San Diego chiamato Point Loma, ero già impegnato a perorare la mia causa davanti a loro, nel salotto. Sono partito subito citando il caso papà versus mio fratello Daniel Halpern, in seguito al quale mio fratello Dan ottenne il permesso di ritornare a casa quando aveva 29 anni e attraversava una fase di transizione. Nel bel mezzo della ringa, mio padre tagliò corto. «Senti, va bene, non hai mica bisogno di farmi tutta sta manfrina di stronzate. Lo sai che puoi stare qui. Ti chiedo solo di non seminare in giro i tuoi stracci puzzolenti. Non voglio vedere la tua camera da letto ridotta tipo postumi di una mucchiata. Ah, a proposito, mi spiace che la tua ragazza ti abbia scaricato». There is a sleeping dog under this dialogue, obedient only to rhyme. But if I could beckon her, if I could find the words, all they would be is lies. Tell me why this failure is making you smile. Then off goes the bell, ringing through my head, signifies that all's been said. This failure is making off you goes smile. The bell, ringing through my head. There is a passenger in every useless word. Can never be twisted or sold. Center of my skin, a body of discipline. Must be a million years old. I've been told you're offering more than you owe. Then off goes the bell. Era diventato un caso quello del padre di Justin Halpern, che negli Stati Uniti era stato considerato il nuovo papà d'America, il vecchio Sam, che era appunto quest'uomo che non era proprio permissivo, insomma, non si lasciava andare a tante smancerie. Il libro è proprio diviso in piccolissime parti tematiche, tipo sulla cavalleria. Il padre gli diceva: lascia tua madre il posto davanti in auto, me ne sbatto se ti dice che ti ti ci puoi sedere. Lei è tenuta a dirlo e tu sei tenuto a rispondere non sia mai. Credi che io sia disposto ad andarmene in giro con mia moglie seduta dietro e un moccioso di 9 anni davanti? Tu sei completamente fuori di testa. Immagina, sono stato a un matrimonio in questi giorni ed ero attorniato da moltissimi. Adesso io sono nella fascia d'età in cui vai al matrimonio, c'è un sacco di gente con bambini piccoli, ovviamente. Oh, nel 2013, probabilmente negli anni 80 avresti avuto 25 anni e avevi già persone con i bambini intorno, invece adesso gira così. Insomma, e diciamo che il permissivismo è un po' il tema dominante, o era il tema dominante nei ristoranti, insomma, dove mi sono trovato con queste persone con tanti bambini. E quindi quasi sto rivalutando dopo questo weekend le cazzate che dice mio padre, questo libro che racconta aneddoti su cose che il padre diceva al figlio, tipo il mio primo giorno d'asilo. Tema: il primo giorno d'asilo. Hai trovato difficoltà all'asilo? Beh, se l'asilo ti stressa, figlio mio, ho brutte notizie per te sul resto dell'esistenza. Ancora, la mia prima festa da ballo, ma ti sei profumato? Figliolo, in questa casa non c'è una goccia di colonia, solo il profumo di tua madre. Lo conosco molto bene e permettimi di dirti che è un po' inquietante sentire la fragranza di mia moglie addosso a un moccioso di 13 anni. Ripeto, si chiama Le cazzate che dice mio padre, è un libricino che è molto divertente. Se avete bisogno, se siete in aria, diciamo, in questa età, secondo me può essere anche questa una bella lezione. Grazie a Margherita Ina, Tiziano Bonini e Pietro Lacorte. È sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Visto che si parlava di lezioni e visto che un'ora fa a pochi chilometri da qua si è tenuto un funerale, insomma non bisogna ricordare che non c'è più Enzo Iannacci con noi, ci piaceva lasciare l'ultima lezione di oggi, ci piaceva che fosse questa qui di Enzo Iannacci. Grazie ancora a Gianmarco, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Maria Teresa Borzò, vivo a Roma. La storia di domani è quella che ho scritto io. Questa storia parla di un incontro felice ma anche parzialmente doloroso fatta in un luogo pubblico quale è un ufficio postale. Questa è la mia storia e io sono qui.